guardo dentro, vedo un mare di parole. Sono solo con me stesso e giro nei quartieri, palazzi come mura, guaieri. La città intorno a me è come alla modula. La gente mi passa a fianco anche se non lo vedo. Ma quando alzo lo sguardo mi accorgo cose vero. Poi i tuoi occhi con fulmine nel cielo, sento veramente cosa in me hai provocato. Ti scontri per la strada, spingendomi all'indietro, e ti giri verso me lanciando un sorriso. Allora io capisco, non mi hai dimenticato, ma quello che vorrei dirti è chiuso dentro me. Aspetterò per tutta la vita e son convinto che quando arriverai, pensando alla nostra storia, mi penetra come una carezza e il mio amore capirai. Ora siamo insieme tu ed io, ce ne importa niente degli amici, non ce ne frega niente gli eroi, l'importante è che siamo ancora insieme. Sai che è cominciata solo ora, due anime in un corpo nel segno dell'amore, che come tutti sanno prima o poi arriva al cuore. Io t'aspetterò per tutta la vita e son convinto che quando arriverai, pensando alla nostra storia infinita, per tutta la vita, e son convinto che quando arriverai, pensando alla nostra storia infinita, come una carezza, il mio amore capirai.